Radio 24 Reportage. L'Italia dei festival letterari. A cosa servono e chi li frequenta? Di Alessandra Tedesco. Più di una volta qualcuno si è preso la briga di contarli. C'è chi dice che siano circa 1200, chi, causa crisi, pensa a una riduzione sotto i 1000 e chi invece parla addirittura di 1700 festival culturali ogni anno in Italia. Ovviamente si parla di manifestazioni molto diverse fra loro, per temi, persone coinvolte e ripercussioni sul territorio. Dalla scienza alla filosofia, dalla matematica alla letteratura in senso ampio, l'elemento comune è sicuramente il forte legame con il territorio. Ci sono festival culturali organizzati in piccoli centri o manifestazioni che coinvolgono città grandi come Roma, Milano e Torino. Da qualche tempo in Italia, si sa, patria delle polemiche, abbiamo anche iniziato a discutere su questo. I festival sono troppi? Meglio pochi ma buoni e di grande respiro o meglio un'azione capillare che coinvolga anche gli abitanti di paesini che magari non hanno grandi offerte di cultura e spettacolo? Per capire qualcosa in più sui festival siamo andati a Mantova, dove ogni anno a settembre si svolge il Festival Letteratura, la manifestazione di riferimento nel settore. Che cosa cercano i lettori? A che cosa servono i festival, secondo chi li frequenta? Sentiamo i diretti interessati. Non credo, come dice qualcuno, che servano a far leggere più libri, ma servono a far circolare le idee, a sentire cosa pensano gli autori, a sentire autori che si confrontano fra di loro. E secondo me è il circolo delle idee che funziona, perché non sempre si parla solo di libri, si parla di quello che gira nell'aria. E questo fa bene a tutti, a chi legge e a chi non legge. Credo che quando ognuno poi torna al proprio lavoro, che magari non è necessariamente un lavoro artistico, si abbia così più voglia di cercare di guardarsi intorno, soprattutto, che cosa che facciamo sempre meno. Quali sono gli incontri che in genere l'attirano di più, insomma? Robe abbastanza easy, cose abbastanza da infotainment, informazione e intrattenimento, quindi i giallisti che uniscono l'invenzione alla cronaca, le grandi firme del giornalismo, protagonisti del mondo dello sport, quei personaggi, quei protagonisti che uniscono magari, come possiamo dire, la parte più pesante, più pura della letteratura con ciò che vediamo intorno ogni giorno. Il pubblico dei festival è naturalmente variegato. C'è chi vuole incontrare lo scrittore o il personaggio famoso per vedere l'effetto che fa da vicino e sentirlo parlare. C'è chi invece è a caccia di nuove proposte. Chi ancora è fiducioso e possibilista. Sceglie gli incontri in base a un titolo accattivante e si fida completamente di chi organizza la manifestazione, sicuro di trovare comunque un punto di vista diverso sulla realtà. Secondo Diego De Silva, scrittore napoletano che ricorre spesso all'ironia, come nei romanzi con protagonista l'avvocato Malin, i festival sono dei surrogati. Di che cosa? Sentiamolo. Probabilmente stanno svolgendo da diversi anni, anche perché sono così in aumento, in moltiplicazione più che in aumento, una funzione surrogatoria rispetto all'università. Cioè molto spesso questi fiumi, soprattutto di persone giovani che vanno a festival, diciamo anche più specifici rispetto a quello di Mantova, pensa Sarzana o il Festival della Filosofia per esempio, no? Sono tutte occasioni in cui secondo me lo studente cerca degli stimoli e cerca un livello di confronto più esperienziale con la cultura che gli interessa. E se uno va a sentire uno scrittore, va a sentire un regista o un filosofo, vuole attingere direttamente ad una forma di conoscenza che abbia più a che fare con un vissuto, no? Che non con un approccio accademico. E in questo, se ci pensi, c'è un ritorno a quella che poi era originariamente l'università. Cioè, cos'era l'università? Era un rapporto invertito, cioè erano gli studenti, cioè una cerchia di persone che voleva sapere di più di qualcosa e si rivolgeva a chi, su propria scelta, avesse un maggior livello di competenza. E allora probabilmente il festival è questo, è un ritorno da parte sto parlando soprattutto del pubblico giovane, di scegliersi da sé i propri maestri, se vuoi, i propri riferimenti o anche semplicemente degli stimoli che poi lo aiutino ad andare avanti per conto suo. E questa mi sembra una cosa molto bella, perché è un atto di libertà e di responsabilità culturale che il singolo si assume quando sceglie di essere pubblico di un festival. Scrittrice scoperta a un festival, nello specifico quello di Mantova, nel progetto Scritture Giovani, è Chiara Valerio, ormai presenza fissa al Festival Letteratura e non solo, sia come autrice che come spettatrice. E Chiara Valerio sceglie un'immagine originale per spiegare il valore delle manifestazioni culturali. C'è quella scena bellissima in un cartonato di Walt Disney che si chiama Ratatouille, dove a un certo punto arriva il critico gastronomico nel ristorante e quando il cameriere arriva a prendere l'ordinazione, lui risponde: portatemi per favore un po' di prospettiva. Allora, adesso io penso che ci sono dei festival letterari in Italia che danno esattamente questo, una prospettiva, un'idea, una immagine di futuro attraverso i libri che vengono proposti. E penso che sia giusto non solo finanziare questi festival da parte delle istituzioni pubbliche, ma penso che sia giusto che i fruitori paghino per gli eventi, perché uno dei modi di partecipazione alle cose sono i soldi, purtroppo, e quindi questo va bene. Se qualche anno fa, prima che io arrivassi a Roma e cominciassi a lavorare in una casa editrice che si chiama Nottetempo, io avevo un'idea diciamo di lettura molto più singolare. Adesso capisco che la lettura è quasi sempre o è ormai definitivamente diventata una specie di attitudine collettiva. Quindi uno che cosa fa? Legge insieme. Probabilmente guardi come si guardano insieme le serie televisive o le partite di calcio. Come fare un gruppo d'ascolto, insomma. È un gruppo d'ascolto. Questo è per esempio una dimensione per me di prospettiva. I festival danno prospettiva, i festival danno spunti per pensare, i festival fanno conoscere l'altro da sé, ma il punto è: più di 1000, sono troppi? Non c'è il rischio di parcellizzare l'offerta e dare al pubblico tante piccole manifestazioni di discutibile valore? O al contrario, piccolo e bello perché coinvolge realtà dove normalmente non succede quasi nulla? Risponde Luca Scarlini, assiduo frequentatore di festival in Italia e all'estero e organizzatore di incontri di lettura. I festival letterari sono tanti, alcuni di qualità, altri di minor qualità. Ci vuole poco a capire se una proposta è seria o decorosa o assolutamente scema e basata sui personaggi che vanno di moda in rete o i libri della cucina, del pallone o tutto il vario repertorio di pornografia editoriale degli ultimi anni. In realtà tante volte capita, e capita anche a me che di mestiere faccio il raccontatore di opere letterarie, non solo in italiano ma anche un po' in giro per l'Europa, che uno va in questi festival e tra tante cose che sa ne becca una che non sa, che è meraviglioso scoprire una cosa che non si sa e che ti è piaciuta e che puoi approfondire. Rispetto agli altri festival, per esempio in Europa, gli altri festival culturali, letterari, questo per esempio di Mantova, ma anche altri festival italiani, come sono? Siamo indietro in questo senso oppure riusciamo a fare concorrenza? All'estero spesso ci sono nomi più importanti da paesi anche più remoti. L'Italia ormai ha possibilità economiche minori e chiaramente anche i grandi enti stranieri. Io ho lavorato per anni per il British Council negli anni 80 e 90 che investivano per avere autori africani, autori caraibici di lingua inglese da tutto il mondo, ormai investono per portarli a Dubai o in India. L'Europa è un paese deliziosamente in carta pecorito, ma in tutto questo c'è secondo me lo spazio ancora per raccontare storie molto bene e anche proprio per ritornare a questo patrimonio italiano senza bisogno di provincialismi cretini per dire che è il migliore o il peggiore, sono tutte idiozie, ma per capire quello che c'è di buono qui dentro, e è tanto che c'è di buono. In molti festival culturali ci sono diversi incontri destinati a bambini e ragazzi, spesso coinvolti in laboratori pratici. Per loro è sicuramente un'esperienza entusiasmante, come ci racconta uno scrittore per bambini, Matteo Corradini, che a queste manifestazioni coinvolge i più piccoli. I ragazzi, per fortuna, vivono spesso, anche durante l'anno, tante esperienze di lettura. Penso al grande lavoro che si fa in Italia legato alle biblioteche. E i festival sono un po', credo, come dei compleanni. Sono delle feste che ti ricordano che c'è qualcosa che esiste o qualcuno che esiste in maniera particolare. È ovvio che se tu sei amico o amica di una persona, sei il suo amico per tutto l'anno, non ti serve il compleanno per dimostrarglielo, però in quel giorno lì lo festeggi un po' di più. Le città dove si svolgono festival culturali, da Mantova a Sarzana, da Pordenone a Cuneo, da Bari a Palermo, vengono coinvolte nell'organizzazione. In molti casi si chiede supporto ai volontari, soprattutto giovani. Da un lato si contengono i costi, dall'altro i ragazzi fanno un'esperienza di condivisione divertente e interessante. In più per le città c'è da considerare l'aspetto economico, perché le ricadute sul territorio sono consistenti. Hotel, affittacamere, ristoranti, bar e negozi in genere incassano più del solito. E la città ne gode anche in altri periodi dell'anno, visto che i festival sono un modo per costruire una nuova immagine culturale e turistica del territorio. Ma le librerie, potenzialmente le maggiori interessate dal fenomeno festival, sono realmente avvantaggiate dalle manifestazioni culturali? La parola a Enza Campino, libraia a Orvieto. Secondo me servono tantissimo, si vede soprattutto poi dal risultato, diciamo, che hanno sul territorio, anche per quanto riguarda la qualità dei lettori, perché con gli ospiti che vengono proposti, e spesso non sono autori di alta classifica oppure di cui si parla moltissimo, ma quindi aiutano i lettori a scoprirli, indirizzano anche le letture. Questo a volte si vede anche nei festival estivi nel territorio dove avvengono, se c'è un incontro che ha particolarmente successo, i libri di quegli autori si vendono poi per esempio anche molto a Natale, perché le persone che li hanno scoperti e letti nel periodo della loro presenza in città poi decidono di regalarli, e quindi a volte si hanno nelle sorprese, no, guardando le classifiche delle singole librerie. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.